Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Onorevoli deputati, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti. Deputati, lasciate terminare la ministra. Deputati, per favore. Per favore, deputati, lasciate concludere la ministra. Lasciate concludere la ministra Boschi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, che oggi ha avuto il compito di annunciare alla Camera che il governo di Renzi, aveva deciso di porre la fiducia da domani sull'Italico, una cosa che le opposizioni insomma già temevano da tempo e cercavano di allontanare il più possibile. E oggi è scoppiata la protesta perché il governo ha deciso, quindi si dice, di blindare l'Italico in modo che si vota a favore o se non passa, insomma, si rischia di andare a casa, si sa che ognuno ci tiene un po' alla propria poltroncina. Parleremo naturalmente di politica questa sera, dovremo raggiungere anche fra gli ospiti il deputato di SEL, coordinatore nazionale di SEL, che è Fratoianni, Nicola Fratoianni, per sapere per quali sono i motivi per cui l'opposizione ce l'ha così tanto con l'Italicum. E per quanto riguarda la fiducia, vi chiedo, anche questo potrebbe essere il tema che vi sottopongo stasera, perché voi rispondiate con le vostre opposizioni, con le vostre opinioni al 349-238-6666 per quanto riguarda i messaggi, gli sms al 349-238-6666 o come sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Il quesito è molto semplice, questo: Renzi alla fine ha fatto bene a scegliere di blindare l'Italia, cioè di porre la fiducia, e come dicono i suoi sostenitori, quindi un modo per non rallentare più le riforme, oppure come dicono i suoi detrattori è stata una mossa quasi fascista, di autoritarismo, perché la legge elettorale dovrebbe essere il più condivisa possibile. Cosa ne pensate? Pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Poi naturalmente ci soffermeremo ancora sul Nepal e poi anche su una storia molto particolare, che è quella del Carpi. Anche chi non fosse interessato al calcio non può non essere incuriosito dal fatto che una piccola squadra così dell'Emilia Romagna, di una cittadina dell'Emilia Romagna, potrebbe per la prima volta nella sua storia questa sera andare in Serie A. Dovremmo anche riuscire a raggiungere poi il sindaco di Carpi, che sarà nell'attesa, perché prima delle 22, quando si chiude Effetto Notte, non avremo il risultato finale, ma pare che sia quasi automatico questo passaggio, e adesso vi racconto la giornata. La riforma della legge elettorale, Renzi pone la fiducia sull'Italicum, bagarre in Parlamento, insulti alla ministra Boschi, basta rinvii, dice il Presidente del Consiglio, mi prendo la responsabilità, se perdo si va a casa. Il terremoto in Nepal, sarebbero 5.000 i morti accertati, ma secondo le autorità nepalesi il bilancio potrebbe salire a 10.000, mentre scendono a 10 gli italiani irreperibili. Indonesia, 8 stranieri condannati a morte per traffico di droga sono stati fucilati, lo riferisce il Jakarta Post. Xylella, l'Unione Europea ha deciso per l'eradicazione degli ulivi malati nelle aree infette di tutte le piante ospiti situate in un raggio di 100 metri. Stati Uniti, Baltimora, come Ferguson, neri in rivolta contro la polizia, scontri dopo la morte di un ragazzo. La Guardia Nazionale in campo, è arrivata poco fa la notizia, pensate che a Detroit un altro giovane di colore di 20 anni è stato ucciso dalla polizia perché è sospettato di rapina e armato con un martello. Poi l'omicidio di Cogne, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha deciso che Anna Maria Franzoni resta ai domiciliari. Milano, a 3 giorni dall'Expo, la città nel caos oggi per uno sciopero dei trasporti. Meteo ancora temporali sull'Italia, ma migliora per il ponte del 1° maggio, e per il calcio, miracolo Carpi, basta un pari con il Bari e per gli emiliani sarà Serie A. Partiamo quindi dalla politica, con l'Italicum e le proteste all'annuncio della fiducia sulla riforma della legge elettorale. Il governo esce indenne dal voto anche segreto delle pregiudiziali di costituzionalità, ma blinda poco dopo l'Italicum con la fiducia. Il Consiglio dei Ministri la autorizza, il ministro Boschi l'annuncia in aula, scatenando le proteste delle opposizioni, riprese più volte dalla presidente della Camera Boldrini. Onorevoli deputati, a nome del governo, autorizzata dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti. Deputati, lasciate terminare la ministra. Tra domani e giovedì 3 voti di fiducia su altrettanti articoli, il via libera al testo poi la prossima settimana. Ma l'accelerazione del governo spacca il Partito Democratico. Non voteremo la fiducia, dicono molti esponenti della minoranza. Da Speranza a Civati, per Bersani è in gioco la democrazia. Qui c'è in gioco una cosuccia che si chiama democrazia. perché qui non c'è Bersani-Renzi, qui c'è qualcosa di più serio, no? All'attacco del governo tutte le opposizioni, lancio di crisantemi da parte di Sel, è il funerale della democrazia, vergogna, vergogna dai 5 Stelle al governo, Renzi ha una paura folle, dice Salvini, così Brunetta, Forza Italia. Noi non consentiremo il fascismo renziano! La Camera ha il diritto di mandarmi a casa se vuole, la fiducia serve a questo, replica il Presidente del Consiglio Renzi, che aggiunge, finché sto qui provo a cambiare l'Italia. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Poi, come dicevo, ne parleremo con il coordinatore nazionale di SEL e anche con un commentatore o commentatrice politica. Vedo già arrivare molti vostri messaggi, sono talmente tanti che mi confondo, a proposito dell'opportunità o meno di questa scelta di Renzi di porre la fiducia sulla legge elettorale. E poi il terremoto in Nepal, gli aggiornamenti sul bilancio delle vittime, come vi dicevo, sono da ecatombe, si parla di 5.000 morti accertati, ma le autorità nepalesi fanno sapere che potrebbero arrivare a 10.000, quasi 500.000 i profughi interni, il tutto quando diverse zone colpite dal sisma, come piccoli villaggi di montagna, ancora non sono stati raggiunti dai soccorritori a causa della difficoltà delle vie impraticabili, ma anche nei grandi centri la situazione è comunque pesantissima. Sentiamo Fulvia Clerici, operatrice dell'organizzazione non governativa AIBI, che si trova nella capitale, Kathmandu. La difficoltà in questo momento è raggiungere proprio gli edifici, perché il centro si trova sulla strada dopo l'aeroporto e lì c'è un grossissimo buco che si è aperto nella strada. Il problema è che non c'è fornitura di elettricità, non c'è un sacco di cose, se si va in giro comunque per Kathmandu c'è tutta la gente riversa in strada, dorme fuori. Ancora all'estero, in Indonesia, 8 stranieri sono stati condannati a morte per traffico di droga, sono stati fucilati, lo riferisce il Jakarta Post. E poi in Arabia Saudita, l'ISIS aveva pianificato un attentato kamikaze contro l'ambasciata statunitense a Riyadh in Arabia Saudita, lo rivelano le autorità saudite citate dal Al-Arabiya, e però è stata appunto sgominata questa cellula. E poi invece negli Stati Uniti, notizia di poco fa, vi dicevo che mentre a Baltimora si sono scatenate le proteste e la rabbia dei neri per i metodi brutali della polizia dopo la morte in seguito a un arresto di un giovane nero a Detroit, poco fa la notizia, si registra un nuovo caso, un giovane di colore di 20 anni sospettato di rapina e armato con un martello è stato ucciso da un poliziotto. Sull'episodio è stata aperta un'inchiesta e per stasera sono previste proteste. Di nuovo in Italia, dopo una lunga maratona negoziale, il Comitato dell'Unione Europea per la Salute delle Piante ha adottato le misure anti-xylella, cioè il batterio che sta decimando gli ulivi soprattutto in Salento, in Puglia. Tra queste l'eradicazione degli alberi malati nelle aree infette di tutte le piante ospiti situate in un raggio di 100 metri, cioè in un raggio di 100 metri rispetto a quelle malate, quindi potete immaginare che strage di ulivi. E poi questa notizia, un traghetto italiano con circa 170 passeggeri ha preso fuoco al largo di Palma di Maiorca, diretto a Valencia, l'incendio è divampato nella sala macchine dopo 2 ore di navigazione, 3 membri dell'equipaggio sono feriti in modo lieve, intossicati dal fumo, gli altri passeggeri, tra cui non ci sono italiani, sono stati evacuati grazie al soccorso di 3 navi che erano in zona. E siamo alle spese pazze in Regione Lombardia. 56 ex consiglieri sono stati rinviati a giudizio, 3 già condannati, mentre in 4 escono dalla vicenda. Sentiamo. I primi 3 condannati avevano chiesto il rimborso anche per la Nutella, gli elettrodomestici e per la quota annuale dell'ordine dei giornalisti. Gli altri 56, ora rinviati a giudizio, si erano fatti pagare invece dalla Regione soprattutto cene in hotel esclusivi, costosissimi aperitivi, ma pure videogiochi, biglietti, gratta e vinci e spazzolini da denti. Per le spese pazze al Pirellone, dopo la Corte dei Conti, anche la giustizia penale emette i suoi primi verdetti e manda a processo, tra gli altri, l'ex igienista Nicole Minetti, il figlio del senatore Renzo Bossi, l'ex presidente del Consiglio regionale Boni o ancora 3 assessori della giunta Formigoni. Qui la politica si fa nei ristoranti, aveva esclamato il PM Filippini, davanti a scontrini per cene a base di aragoste o sushi, prediletto dalla Minetti, che si era fatta rimborsare però anche i 16 euro del libro Mignottocrazia di Guzzanti. Un libro, ma quello di panza, insieme a caramelle, videogiochi e cocktail, compongono la lista della spesa del Trota, a cui si contestano uscite per 15.000 euro. Sono invece del PD 2 dei condannati in rito abbreviato, Carlo Spreafico a 2 anni e Angelo Costanzo ad 1 anno e mezzo, 2 anni anche per Bonetti Baroggi, NCD. Gli altri 56 dal 1 luglio davanti ad una corte dovranno cercare di spiegare quei 3 milioni di spese imprese pazze a carico del Pirellone. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Passiamo al delitto di Cogne. Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha prorogato la detenzione domiciliare per Anna Maria Franzoni, condannata per la morte del figlio Samuele a Cogne, vi ricordate, il 30 gennaio 2002. A quanto si apprende, il Tribunale avrebbe disposto la proroga del beneficio, visto che la detenuta ha già scontato 2/3 della pena. E una notizia di cronaca: sono stati arrestati per omicidio preterintenzionale, rapina, lesioni e sequestro di persona i 3 giovani, tutti romeni, bloccati dai carabinieri nell'ambito delle indagini dopo che un agricoltore di 91 anni è stato trovato morto nella sua casa di Terni. Lo hanno riferito gli investigatori durante una conferenza stampa. E arriviamo quindi a Milano, dove è stata una giornata pesante a causa di uno sciopero del trasporto pubblico, ha praticamente creato il caos nella città. Sentiamo Claudio Signore, segretario generale di CUB Trasporti, la Confederazione Unitaria di Base dei Trasporti, che spiega i motivi di questo sciopero effetto giorno dal punto di vista sindacale. Già con il servizio ordinario in ATM a Milano, il servizio viene svolto col 30% di straordinario da parte del personale viaggiante. Per Expo ci viene ulteriormente chiesto di aumentare questa quota di straordinario, ci vengono chiesti 6 riposi in sabato e domenica, dobbiamo restituire questi 6 riposi e per quanto riguarda, come ha detto, le ferie, noi già da tempo non andiamo in ferie proprio per questa carenza di personale. La media è che ogni lavoratore, ogni tranviere ha circa 50 giorni di ferie residue degli anni precedenti, sì, e compreso quest'anno, e non riesce a fare. Da noi vengono spesso anche negati i permessi per andare a però è vero anche, mi scusi, è vero anche che dall'accordo si prevedono delle nuove assunzioni, non è che rimanete con lo stesso organico in questo semestre, no? Sì, le assunzioni non si capisce come mai vengono assunte 80 persone nella Lilla, che è una metropolitana automatica e quindi dovrebbe già prevedere meno personale perché non c'è quello di guida, e per il personale viaggiante di superficie vengono assunte 90 persone. Io le dico che nel mio deposito di Viale Scarta, che è il più grande, mancano circa 80 turni tutti i giorni senza Expo. Queste 90 assunzioni non coprono nemmeno il turnover delle persone che andranno in pensione di qui a 6 mesi. E adesso giustamente la replica, questo è effetto giorno, invece effetto notte. Bruno Rota, presidente di ATM, l'azienda dei trasporti milanese. Buonasera Rota, cosa risponde? Buonasera. Quindi a queste argomentazioni? Ma guardi, noi finora come azienda siamo stati molto zitti su questo accordo, rispettando che il fatto che fossero i sindacati che l'hanno sottoscritto che lo spiegassero, però oggi questo signore Claudio Signore ha raccontato talmente tante storie che insomma una replica è indispensabile. Ma questa cosa delle ferie, degli 80 turni che mancano adesso che non è neanche iniziato l'Expo, come risponde? Allora, innanzitutto partiamo dall'ultima storia che ha raccontato, quella delle 70 assunzioni per la metro 5. Pensi che tutta la metro 5, l'intera rete, oggi ha 70 dipendenti, quindi sono 70 dipendenti globalmente in tutta la metropolitana 5. Viene raccontato che assumiamo 150 persone nella sicurezza e negli ausiliari, si omette di dire che assumiamo 120 autisti e che li abbiamo già assunti, 95 sono già dentro in ATM, abbiamo assunto 50 nuovi macchinisti per le metropolitane. Cioè, poi non capisco perché quando l'azienda e quando il signore faceva parte della RSU, perché lui ha fatto parte della RSU, si facevano 1.800.000 ore di lavoro all'anno, tutto andava bene. Adesso che siamo scesi a 1.300.000, che è un numero che deve essere ulteriormente ridotto, invece è uno scandalo. Questo sciopero è stato proclamato prima ancora che l'accordo per Expo fosse sottoscritto, e questa la dice lunga su qual è il vero obiettivo di questo caos che è stato creato oggi. Rota, proprio stiamo in chiusura, sì, le ferie gliele farete fare 50 giorni residui di ognuno? No, non sono 50 giorni, nel modo più assoluto, no. È una campagna di disinformazione basata su cose che non sono vere. I lavoratori non sono stupidi, come mai oggi nessun operaio dell'ATM ha aderito allo sciopero? E sono 1.500 gli operai dell'ATM. Benissimo, Bruno Rota, io la ringrazio, devo proprio lasciarla a questo punto. Grazie, buon lavoro e buon lavoro. E ora parliamo brevemente della mai raggiunta parità. Secondo i dati forniti dall'Istat, il numero di ore di lavoro familiare delle donne lavoratrici in coppia con figli fino ai 7 anni è pari a 5 ore e 37 minuti al giorno, lavoro solo quello familiare, non quello esterno. Ma c'è un dato particolarmente significativo: se in famiglia manca il marito, cioè se si tratta di una famiglia monogenitoriale formata quindi da una donna e dai figli, figli, il sovraccarico del lavoro di cura delle donne diminuisce di oltre un'ora perché almeno non deve prendersi cura di lui, così dice l'Istat. Siamo allo sport con il nostro Dario Ricci e il miracolo Carpi che potrebbe compiersi questa sera. Eccomi qua Roberta. A proposito di parità, è proprio un pareggio quello che vuole il Carpi, perché basta un punto in questo momento del campionato agli uomini di Castori. Questa sera in campo alla fine del primo tempo sono sullo 0-0 contro il Bari, basta solamente questo pareggio per conquistare la Serie A, sarebbe la prima volta per gli emiliani, che sono di fatto già al terzo match point, quindi sarebbe ora che concretizzassero questa supremazia sera, Esattamente. Finora siamo sullo 0-0, quindi il pareggio sta arrivando, la festa è questione di 45 minuti al Cabassi di Carpi. E sullo 0-0, quando invece siamo al 32esimo di gioco, è anche Udinese-Inter l'anticipo di questa sera della 33esima di Serie A. Non ce lo voglia il Bari, insomma, possiamo augurarlo al Carpi per una volta nella sua vita, nella sua storia. Un punto. Via. Il Carpi sta simpatico, insomma, le piccole squadre ci piacciono. Ci piacciono. A dopo da Giudici, dopo allora ci risentiamo, ci aggiorniamo, vediamo a che punto siamo. Io direi che qualche messaggio vostro, di tantissimi che stanno arrivando, lo leggerei a proposito dell'opportunità da parte di Renzi di porre la fiducia sull'Italicum. Dice Franco: far approvare una legge elettorale con una fiducia da regime autoritario, peggio ancora saranno le conseguenze di questa riforma. Pensate il potere che potrà esercitare un premier come Berlusconi, Grillo o Salvini. Antonio invece dice: Renzi ha fatto benissimo. Clotilde: spero vivamente che lo sfiducino, che si vada alle elezioni e che ne esca con ignominia lui e tutti gli incompetenti che gli girano intorno. Poi i vostri messaggi sempre al 349-238-6666 e alla pagina Facebook di Effetto Note. Aggiorniamo però Chi Viaggia tra pochissimo. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presento. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Onorevoli deputati, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei Ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione senza emendamenti. Deputati, lasciate terminare la Ministra. Deputati, per favore. Per favore, deputati, lasciate concludere la Ministra. Insomma, avete sentito con quale contentezza dalle opposizioni e dalla minoranza Dem è stata accolta la notizia che si porrà la fiducia sull'Italicum. Ne parleremo tra pochi istanti. Adesso vi ricordo, mentre voi continuate con i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia attraverso gli sms al 349-238-6666, dicevo, vi ricordo le notizie principali. Fiducia sull'Italicum per l'appunto, Renzi sfida il Parlamento, scoppia la bagarre, come avete sentito, basta rinvii, dice il Presidente del Consiglio, se perdo vado a casa. Bersani però dice non la voto. In Nepal è un'ecatombe, si temono 10.000 morti, non si trovano 10 italiani, è già polemica sui soccorsi. Baltimora negli Stati Uniti come Ferguson, neri in rivolta contro la polizia, scontri dopo la morte di un ragazzo, c'è la Guardia Nazionale in campo ed è notizia di poco fa che anche a Detroit è stato ucciso un giovane nero di 20 anni, sospettato di aver fatto una rapina. Allarme sicurezza, perquisizioni e sequestri ai No Expo, identificati antagonisti stranieri. Il 30 ci sarà la bonifica del sito dell'Expo. De Santis, questa è la notizia di calcio, rinviato a giudizio per la morte di Ciro Esposito, le indagini sul derby della Mole, 8 arresti e 15 denunce, ne abbiamo parlato ieri del derby. E poi spese allegre in Lombardia, Bossi Junior e Minetti a processo, 56 in tutto gli ex consiglieri regionali rinviati a giudizio. Poi abbiamo parlato poco fa del Carpi, che potrebbe fare il colpaccio questa sera, essere per la prima volta in Serie A. E siamo a parlare quindi di politica. Abbiamo detto le tensioni sull'Italicum, le avete sentite proprio a livello acustico, quindi la riforma della legge elettorale. Tensioni che si trascinano da diverso tempo tra governo renziano da una parte e minoranza PD opposizioni dall'altra. Un conflitto che è salito, come avete sentito, alle stelle dopo la decisione ufficiale di oggi da parte del governo, quindi di Renzi, di porre la fiducia alla Camera. Si tratta praticamente di votare 3 fiducie. Una sarà votata domani, 2 giovedì e ancora non è chiaro quando si terrà la votazione finale sulla legge elettorale nell'aula della Camera. Non si conosce ancora quanti saranno gli ordini del giorno, quindi gli emendamenti. Brunetta ha minacciato dicendo che ce ne saranno moltissimi e quindi è probabile che al voto finale si arrivi la prossima settimana. Oggi sono state votate senza troppe difficoltà, sono state bocciate le pregiudiziali di costituzionalità e di merito presentate dalle opposizioni, che quindi sono state bocciate, quindi l'Italicum è passato indenne. E poi il capo del governo Renzi ha deciso, vi dicevo, di blindare la legge elettorale e di chiedere la fiducia. Cominceremo a sentire man mano come hanno reagito almeno alcuni degli esponenti più in vista, sentiremo tra pochissimo. Intanto saluto Maria Teresa Meli, buonasera Maria Teresa. Buonasera. Giornalista e notista politica del Corriere della Sera, e c'è l'onorevole Nicola Fratoianni, buonasera Fratoianni. Buonasera. Coordinatore nazionale di SEL, ricordo che i deputati di SEL hanno manifestato il proprio dissenso, alcuni hanno insultato, ma quelli di SEL hanno mostrato il dissenso con un lancio di crisantemi. Ma sentiamo cosa ha detto fra i vari passaggi Brunetta di Forza Italia. Non consentiremo che quest'Aula venga ridotta a un bivacco di manipoli renziani. Non lo consentiremo. Purtroppo i precedenti sono stati molto presenti alla nostra storia patria e tutto è cominciato proprio con quella legge Acerbo approvata con le stesse modalità della legge truffa di Renzi. Non consentiremo che quest'Aula diventi un bivacco di manipoli renziani. Questo ha detto Brunetta, poi ha aggiunto: la bulimia di potere fa male, la bulimia di potere farà perdere Renzi. Onore a Speranza e Bersani, in particolare che venga da Forza Italia, da un esponente di Forza Italia, e da Brunetta onore a Speranza, Roberto Speranza, ex capogruppo del PD, e a Bersani. C'è anche un po' di crozza lì sulla 7, vogliamo sentire qualche passaggio? Ora io dico, già è difficile fare la nuova legge elettorale, se adesso ci mettiamo anche a trovare la dignità del PD diventa una mission impossible, ragazzi. Non si potrebbe cominciare, ecco, ma non si potrebbe iniziare dalle cose facili? Prima proviamo l'Italicum, portiamo la pace nel mondo, poi sconfiggiamo la fame e poi, se avanza del tempo, eventualmente ci concentriamo sulla dignità del PD. Dignità del PD, sentiamo il voto di PD, giusto Napolitano, poi gli altri audio li sentiamo dopo. È una cosa talmente ingarbugliata la storia di questa riforma elettorale, abbiamo perfino avuto il caso veramente senza precedenti di una forza politica che ha votato questa legge in un ramo del Parlamento e che nell'altro ramo del Parlamento la solleva una questione di incostituzionalità, quindi non entro in questo terribile garbuglio. Un terribile garbuglio, Maria Teresa Meli, chi era questa forza politica che prima ha detto sì poi no, Forza Italia si riferisce? Forza Italia, ma trovo che il Napolitano è molto molto ironico, chiaramente, ha preso in giro Forza Italia e Brunetta, perché effettivamente loro al Senato avevano votato e poi all'improvviso hanno cambiato idea. Diciamo, è una cosa abbastanza delle tante assurdità con cui si sta votando questa legge elettorale, questa è una di abbastanza queste particolare. Però Napolitano l'ha definito un terribile garbuglio questa legge. Ma era ironico, cioè era chiaramente una cosa in cui ha preso in giro Forza Italia col suo garbo, in maniera da gentiluomo meridionale, però è quello che ha fatto. Era palesemente una frase che era riferita a questo problema qua, anche perché diciamo sappiamo benissimo Napolitano che ruolo ha avuto fin quando è stato Presidente della Repubblica. Certo, spinto molto perché ci fosse questa riforma. Senti Maria Teresa Meli, ma era proprio necessaria quindi questa fiducia che ha creato tutta questa tensione? E secondo Renzi evidentemente sì, se no non l'avrebbe fatto, perché credo sapesse bene quali potevano essere le conseguenze e le risposte di una parte della minoranza. Lui si era convinto, a torto ragione, io questo non lo so, che in realtà in uno dei tanti passaggi dello scrutinio segreto avrebbero vanificato l'impostazione della sua legge, perché sarebbe passato un emendamento che prevedeva la possibilità di apparentamento al secondo turno, cioè il ritorno di quelle coalizioni disomogenee che lui tanto odia e che ha cercato di eliminare con questa riforma. Quindi dal suo punto di vista era abbastanza scontato, cioè io non ho mai pensato che non mettesse la fiducia e diciamo che era piuttosto una formula retorica quella di dire adesso vedrò martedì, ecco. Però secondo me lui in cuor suo aveva già bello che aveva detto. Già deciso. Sì. Onorevole Fratoianni, allora mi dice che cosa pensa della fiducia, ma anche quali sono i punti, in sintesi, due o tre punti che proprio non vi vanno giù della legge elettorale. Ma io penso che la fiducia sia un atto molto grave. Nella storia repubblicana la fiducia è stata messa, è stato ricordato nel servizio, negli interventi, nel dibattito di oggi, soltanto tre volte con oggi sulla legge elettorale, e i precedenti non sono certamente precedenti meritevoli di riproduzione. La fiducia sulla legge elettorale, cioè su una legge di rango costituzionale che stabilisce le regole del gioco, che per dichiarazione dello stesso Renzi, come per tutto il percorso delle riforme, doveva invece essere costruita dentro una larga condivisione, che oggi rischia di passare attraverso la forzatura della fiducia e con la sola maggioranza di governo, anzi con una maggioranza di governo inferiore a quella che su altre materie si è manifestata, a partire dalla rottura con una parte del Partito Democratico che oggi si è accentuata, a me pare una cosa molto grave. Voglio ricordare che tutte le opposizioni e le parti della maggioranza che avevano espresso rilievi critici avevano presentato complessivamente 100 emendamenti, che il regolamento aveva ulteriormente ridotto per motivi tecnici che adesso non sto qui a elencare. Cioè un numero di emendamenti ristrettissimo che avrebbe consentito di fare una discussione. L'argomento per cui se si fa la discussione può capitare che il Parlamento, sulla legge elettorale, lo ricordo, modifichi qualcosa e quindi questo non può essere consentito, è un argomento francamente incredibile e che io considero irricevibile. Questo è il motivo per cui consideriamo la fiducia un atto di gravità assoluta rispetto a questo argomento. Sulla legge elettorale c'è un punto che è il punto più importante. Questa legge elettorale, insieme alla riforma costituzionale con l'eliminazione del Senato elettivo, produce una distorsione della rappresentanza di proporzioni che noi non abbiamo mai visto. Il Porcellum assegnava alla prima lista un premio di maggioranza. In questo caso, grazie al combinato disposto, cioè diciamo alla relazione tra il fatto che c'è il premio alla lista, alla unica lista, e il ballottaggio, questa legge prevede una possibilità che può darsi, per cui un partito che raccoglie il 25% dei voti, magari al primo turno, perché non raccoglie il 40%, la soglia per averlo, e va al ballottaggio, prende tutto. Tutto vuol dire l'insieme dell'equilibrio dei poteri dello Stato, è in grado di governare l'unica Camera legislativa, di eleggere il Presidente della Repubblica, di determinare gli equilibri nel Consiglio Superiore della Magistratura, nella Corte Costituzionale e così via. Se poi pensiamo che oggi, e diciamo negli ultimi anni, assistiamo a una tendenza che purtroppo, e forse ha a che vedere anche col modo con cui la politica ha lavorato male in questi anni, ha una tendenza che vede diminuire costantemente la partecipazione al voto, scopriamo che quell'eventuale 25% in termini di rappresentanza del Paese è una cosa ancora più piccola. Io penso che questo sia un grande problema. Fratoianni, proprio brevemente, poi così passo di nuovo a Maria Teresa Meli e poi ci salutiamo. Lei ha sentito che il suo collega di partito Antonio Mattarelli ha scritto ieri su Facebook: dopo le profonde modifiche operate al Senato, il testo della legge attualmente in discussione sembra rispondere con sufficiente pienezza a quelle esigenze, così risultando ragionevolmente equilibrato per favorire il principio della governabilità senza arrecare danno a quello della rappresentatività. Su alcuni punti in particolare, senza approfondire i tecnicismi, è lecito manifestare soddisfazione. La soglia per ottenere il premio di maggioranza è stata innalzata al 40%, la soglia per accedere alla rappresentanza parlamentare è stata fissata al 3%, tra le più basse del mondo occidentale. Mi dice brevissimamente come mai il suo collega di partito la pensa così, ma proprio molto brevemente se può. Come mai non lo so, bisognerebbe chiederlo a lui. Io sono in totale disaccordo. Sono il coordinatore di un partito piccolo che spesso i sondaggi danno perfino sotto al 4%, anche se ultimamente stiamo un po' più su. Io sarei stato per una soglia anche un po' più alta del 3%, però avrei chiesto una legge elettorale che non consentisse, col ballottaggio, col premio alla lista, a un solo partito, a una minoranza, seppur la più grande delle minoranze, di controllare l'insieme dei poteri dello Stato. Mi pare più importante questo che avere la certezza o la probabilità di accedere al Parlamento. Chiaro, la ringrazio onorevole Fratoianni. Grazie a voi. Grazie, buona continuazione. Maria Teresa Meli, prima di lasciarci, ci sarà questa spaccatura nel PD che si continua a ipotizzare dopo questa cosa della fiducia? Io credo che nessuno di quelli che domani non voterà Tassina, la fiducia Bersani, andrà via dal partito, mm. Anche perché diciamo questo Italicum glielo rende un po' più complicato. Penso che sia un'azione dimostrativa, però penso che lì finisca, tranne alcuni casi di persone che se ne andranno, ma che già praticamente hanno chi, le per esempio, facci un nome delle valigie. Rosy Bindi, io sono convinta che Rosy Bindi probabilmente la vedremo nella coalizione sociale di Landini, però credo che Bersani e altri personaggi del genere tutto al più possono ritirarsi e non far più politica, ma io non penso che vadano oltre, anche perché diciamo già è abbastanza inconsueto lo spettacolo di persone che hanno fatto i segretari, i ministri, che inscenano questa roba domani di sfilare e dire che non per dimostrare che non votano, già è abbastanza inconsueto, insomma non stiamo parlando di grillini, stiamo parlando di persone che hanno avuto responsabilità, Letta è stato presidente del Consiglio, cioè che hanno avuto responsabilità di partito e di governo notevoli. Non credo che vadano oltre, ci sarà Civati che per la 400esima volta dirà me ne vado, non me ne vado, mi cacciano, non mi cacciano, quando vede che nessuno lo cacciano dovrà finalmente decidere se ne va lui sulla sponte o meno. Vedremo allora domani con i voti di fiducia a partire da domani. Grazie Maria Teresa Meli. Grazie a voi. Ciao Maria Teresa. Brevemente alcuni dei vostri tanti messaggi, per esempio sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Vito, ha fatto benissimo Renzi, dopo tanto parlare giusto che si passi ai fatti e mi pare siano stati ascoltati tutti, non fanno testo i labili di memoria che ora votano in contraddizione con se stessi. Poi Giorgio, non ha fatto bene per il suo governo, non ha fatto bene da un punto di vista istituzionale per fermarsi a Renzi. Se vogliamo parlare male dell'operato del Parlamento, che non è in grado di produrre uno straccio di proposta credibile per la legge elettorale, pur essendo il luogo dove le idee dovrebbero incontrarsi, possiamo perdere altrettanto tempo. Ma adesso di tempo non abbiamo, dobbiamo prenderci uno spazio di ricreazione e poi di nuovo, poi con le vostre naturalmente posizioni e opinioni su Effetto Notte, pagina Facebook o gli sms al 349-238-66. Quando devi fare tante cose hai bisogno di più energia, su con Sustemium Plus e Menarini in farmacia. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci di nuovo insieme, vedo i vostri messaggi, Roberto Giordano sempre con voi, dice Diego da Verona, dai diciamoci la verità, siamo governati da tempo da una banda dei banditi, cosa dobbiamo aspettarci? Niente, apriamo gli occhi, insomma molti non condividono questa decisione di Renzi di porre la fiducia sull'Italicum che si vota da domani, una fiducia domani e poi giovedì e poi definitivamente dovrebbe essere la settimana prossima, ne abbiamo appena parlato con Maria Teresa Meli del Corriere della Sera e con il coordinatore nazionale di SEL che è Nicola Fratoianni, che ha espresso invece la sua contrarietà. Guardavo ancora altri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, per esempio Giuseppe scrive: vorrei sapere come si fa a parlare di Italicum quando ancora milioni di famiglie lottano contro la povertà e giovani tutti disoccupati d'Italia, la casta non se ne parla nemmeno. Bene, continua così Renzi, dice Giuseppe. Job scrive: il Parlamento ha avuto tanti anni per fare una nuova legge elettorale, non l'ha fatto, adesso lo fa il governo e lo impone, il Parlamento preferisce parlare altri 5 anni, facciamone pure senza Renzi, insomma ognuno con la sua posizione diversa. Adesso vi ricordo velocemente le notizie più importanti e poi passiamo a parlare di Nepal. La riforma della legge elettorale, Renzi pone la fiducia sull'Italicum, bagarre in Parlamento, insulti alla ministra Boschi che annuncia appunto la fiducia, basta rinvii però, dice il Presidente del Consiglio, mi prendo la responsabilità e se perdo vado a casa. Il terremoto in Nepal, sarebbero 5.000 i morti accertati ma secondo le autorità nepalesi il bilancio potrebbe salire a 10.000, mentre scendono a 10 gli italiani irreperibili. Indonesia, 8 stranieri condannati a morte sono per traffico di droga sono stati fucilati, lo riferisce il Jakarta Post. Xylella, l'Unione Europea ha deciso per l'eradicazione degli ulivi malati nelle aree infette di tutte le piante ospiti situate in un raggio di 100 metri da ogni pianta malata. Stati Uniti, mentre a Baltimora scoppia la rabbia, neri in rivolta contro la polizia per un ragazzo morto dopo un arresto. A Detroit stasera un altro ventenne nero è stato ucciso dalla polizia, era accusato di una rapina. L'omicidio di Cogne, il tribunale di sorveglianza di Bologna ha deciso che Anna Maria Franzoni resta ai domiciliari. Milano, a 3 giorni dall'Expo, e la città nel caos per uno sciopero dei trasporti. Ne abbiamo parlato prima. Meteo ancora temporali sull'Italia, ma migliora per il ponte del 1° maggio. E per il calcio attendiamo il miracolo del Carpi. Per la prima volta potrebbe essere in Serie A. Sta giocando la partita contro il Bari. Dicevo, quindi occupiamoci adesso di Nepal. Il ministro delle finanze nepalese, vi dicevo prima, ha confermato che il bilancio delle vittime del sisma potrebbe salire fino a 10.000, perché ci sono un sacco di villaggi nel nord del paese difficili anche da raggiungere. Per ora il conteggio, il bilancio sarebbe di 5.057 vittime, ma non ci sono, appunto, come dicevo, ancora cifre attendibili. La Farnesina, intanto, il ministero degli esteri italiano dice che scendono a 10 gli italiani irreperibili. Ieri erano una quarantina, ne sono stati trovati per fortuna almeno 30. E poi c'è il primo ministro Koirala del Nepal, che dice: siamo un paese con pochi mezzi, ma ringrazia comunque le 15 nazioni che hanno offerto assistenza e hanno promesso che tutte le strutture del governo saranno impegnate nell'emergenza. Ne parliamo con Daniele Nardi. Buonasera Daniele. Buonasera Roberta. Che alpinista, ha scalato l'Everest, il K2, il Nangar Parbat, ha scritto In vetta al mondo con Dario Ricci. Daniele, tu quindi conosci molto bene il Nepal, le sue catene montuose, il paese, la gente. Io conosco molto bene quella zona, in particolar modo la zona dell'Everest, perché sono stato lì in quella zona ben 3 volte, 2 volte proprio in direzione della vetta più alta del mondo, appunto l'Everest, invece un'altra volta nella Valle del Khumbu, perché lì ci sono montagne bellissime anche più basse, che è fantastico scalare, quindi la zona la conosco molto bene e sono veramente triste e sbalordito da quello che ha potuto fare questo terremoto in questi giorni. Tu, andando lì diverse volte, forse avrai avuto modo di conoscere diverse persone, hai mantenuto dei contatti, hai potuto anche sentire qualcuno? Non ho voluto volontariamente sentire degli amici che sono in Nepal, proprio per non intasare le comunicazioni e non magari andare lì a disturbare una situazione che è già molto delicata, e quindi le comunicazioni sono necessarie per i soccorsi che si sono attivati in maniera pronta, e infatti voglio fare i complimenti anche a chi ha messo a disposizione non soltanto i mezzi ma anche proprio la propria persona per recarsi lì e fare già dei sopralluoghi. Ho letto anche delle notizie dell'ONU molto rassicuranti in questo senso. È chiaro che la tragedia è talmente vasta che è anche difficile capire concretamente, come diceva giustamente il ministero dal Nepal, il numero di vittime che ci sono. Io mi rendo conto che nelle valli più remote, dove è difficile arrivare con la comunicazione, è complicato, credo, anche capire l'entità del dramma. Senti, tu Daniele Nardi, pensi che ci tornerai presto? Mi pare di aver sentito anche che vorresti aiutare la popolazione. In che modo si potrebbe... Allora, io credo che tutti quanti noi dovremmo fare un atto di donazione, oppure cercare di trovare il modo per aiutare queste persone. Io mi sento molto vicino agli amici del Nepal, perché essendo stato lì tante volte conosco anche tanti Sherpa, tanti nepalesi, tanti amici. Ci sono molti italiani che conosco proprio al campo base dell'Everest, dove è successo quello che non ci si aspettava, mentre è più facile pensare che al centro delle città ci possano essere che il terremoto possa colpire in maniera violenta. È più difficile pensarlo sulle montagne. È chiaro che oggi bisogna concentrarsi più sulle città che sugli alpinisti che sono ai campo base, perché sono chiaramente il numero inferiore, però è chiaro che questa fratellanza, questa amicizia di colleghi o amici che sono lì mi fa pensare a questo. Quello che si può fare è fare una donazione alle associazioni che si occupano direttamente sul campo di questa cosa, oppure quando è possibile, come nel mio caso per esempio, avere delle tende, dei saccappelli, delle attrezzature proprio lì, donarle a chi poi sta andando a fare i soccorsi, e quindi mettere a disposizione delle attrezzature alpinistiche che però possono essere usate in questo momento per aiutare le popolazioni locali. Se tu dovessi dire, Daniele Nardi, visto che lo conosci bene il paese, anche per darci una fotografia della vera anima, dell'identità di questo paese, al di là della distruzione che purtroppo adesso lo interessa, lo devasta, cosa diresti? gente straordinaria, gente e persone che hanno capito l'importanza del turismo, ma sono andate oltre e danno veramente il cuore e l'anima alle persone che visitano le loro terre e senza alcun problema ci accompagnano per mano su queste meravigliose montagne che di fatto sono di loro proprietà, e non è mai scontato poter arrivare su queste montagne e poter esaudire i nostri desideri alpinistici. Loro lo fanno con grande generosità, con grande professionalità e ogni giorno in maniera sempre migliore, quindi quando penso al Nepal io penso veramente a persone che quando incontri già solo una volta il giorno dopo sono dei veri amici, quindi il cuore e l'anima di questo paese va supportato soprattutto per questa loro capacità di regalare sogni e affetto a chi visita il loro paese, scala le montagne o qualsiasi altra cosa fa all'interno del paese. Grazie Daniele Nardi. Grazie a voi. Ciao Daniele. Ciao. Ora guardavo ancora i vostri messaggi, che sono moltissimi, prima di fare quest'altra pausa per aggiornare chi sta viaggiando. Emanuele scrive tra 349-238-6666 e la pagina Facebook di Effetto Notte, leggo i vostri messaggi. Emanuele: capo del governo era il titolo di Mussolini, Renzi è presidente del Consiglio dei Ministri, lapsus freudiano? No, nessun lapsus, si dice ogni tanto come sinonimo anche capo del governo, in realtà se sappiamo che ci sia una figura stile Mussolini. Paola da Verona: Renzi è il premier migliore in questo momento storico, con la perdita totale di credibilità della classe politica da anni, con un Parlamento che ha chiesto al ministro Gentiloni di riferire in aula dell'ultima strage di poveri cristi che tentavano di trovare altrove una speranza di vita, che ha risposto al suo intervento con un'aula vuota. Ma di cosa stiamo parlando, dice. E poi gli altri messaggi dopo, c'è la viabilità. Monge, crocchette e patè per cani e gatti, con tanta carne fresca italiana. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ritorniamo prima delle notizie ancora brevemente ai vostri messaggi. Andrea dice: ma tutti quelli che scrivono che ha fatto bene Renzi sanno almeno che cosa stanno commentando e soprattutto sanno che schifo di legge elettorale l'Italia, come ancora era la priorità dell'Italia la legge elettorale, siamo messi male, mi sa, dice Andrea. Su questa cosa della priorità effettivamente molti argomentano e dicono davvero la cosa più importante, per qualcuno le riforme erano cosa da fare il più in fretta possibile, per altri ci sono altre questioni più importanti. Però adesso vi ricordo a proposito di importanza le notizie del giorno. Naturalmente sempre primo piano la fiducia sull'Italicum, Renzi che sfida il Parlamento con scatenando le proteste, però lui dice basta rinvii, se perdo vado a casa, e Bersani annuncia che non la vota. In Nepal è un'ecatombe, si temono 10.000 morti, non si trovano 10 italiani ed è polemica sui soccorsi. Baltimora come Ferguson, neri in rivolta contro la polizia, scontro dopo la morte di un ragazzo, ma già arriva la notizia che a Detroit è stato ucciso dai poliziotti un altro ventenne nero accusato di rapina. L'allarme sicurezza per l'Expo, perquisizioni e sequestri ai No Expo, identificati antagonisti stranieri. Il 30 ci sarà la bonifica del sito dell'esposizione universale. De Santis è rinviato a giudizio per la morte di Ciro Esposito. Le indagini intanto sul derby della Mole portano 8 arresti e 15 denunce. E poi a proposito di calcio, tra poco sentiremo anche del Carpi. E poi spese allegre in Lombardia, Bossi Junior e Minetti a processo, 56 in tutto gli ex consiglieri regionali rinviati a giudizio. Europa 24 notte. L'Italia è fanalino di coda dell'Europa per il numero di laureati. Secondo Eurostat, in Italia nel 2014 solo il 23,9% delle persone tra i 30 e i 34 anni era in possesso di una laurea, la quota più bassa tra tutti i paesi dell'Unione Europea. Eppure la laurea sarebbe, secondo molti studi, la garanzia migliore per evitare la disoccupazione giovanile, tant'è che in Italia questo dato rimane tra i più alti d'Europa, la disoccupazione. Alessandra Schepisi ne ha parlato con Francesco Ferrante, curatore del 18° rapporto Alma Laurea sulla condizione occupazionale dei laureati italiani. Sicuramente è un dato che noi abbiamo in passato anche ribadito, caratterizzare il nostro paese in negativo. Il nostro è un paese che ha difficoltà a valorizzare i laureati e una delle conseguenze è appunto che l'incentivo della popolazione, dei giovani a iscriversi all'università è inferiore rispetto ad altri paesi. Se sommiamo a questo dato che riguarda la capacità del mercato del lavoro di assorbire il lavoro qualificato, le risorse messe in campo dal paese per sostenere il sistema universitario, abbiamo un altro elemento che spiega perché abbiamo così pochi laureati. Consideri che attualmente, base dati OCSE, il costo di un laureato in Italia, quindi l'assorbimento di risorse reali da parte del sistema universitario per laureare una persona, è la metà di quanto viene assorbito dal sistema universitario tedesco, quindi laureare un italiano costa la metà di quanto costa laureare un tedesco. Evidentemente questo implica che la quantità di risorse impiegate, investite, è molto bassa in Italia. Quindi paradossalmente, se noi aumentassimo il numero di laureati, riducendo anche eventualmente gli abbandoni, questo dato, diciamo che ci vede particolarmente efficienti per certi versi, ci vedrebbe ancora più efficienti, ma evidentemente questo è un segnale del fatto che le risorse messe in campo sono troppo poche. Non si può pensare di produrre laureati con le stesse qualità a metà del costo, è come se si chiedesse alla Fiat di produrre automobili del segmento premium vendendo la metà della BMW. Chiaramente è una cosa non possibile. Oppure la laurea, scrive anche il vostro rapporto, no? È ancora una garanzia contro la disoccupazione? No, sicuramente sì, lo è. Si è visto che anche durante, a cavallo della recessione, i laureati hanno visto crescere il tasso di disoccupazione molto meno di quanto sia successo per i diplomati. Quindi comunque conviene laurearsi anche nelle fasi di recessione. Però ecco, ci sono più disoccupati laureati in Italia che nel resto d'Europa? Sì, sicuramente. Allora, il tasso di disoccupazione giovanile in Italia è più elevato che nel resto d'Europa e questo si riflette anche tra i laureati, per quanto riguarda i laureati. Le difficoltà dei giovani riflettono una caratteristica del nostro mercato del lavoro, il fatto che i tempi di inserimento occupazionale sono particolarmente lunghi. Questo significa anche per i laureati che nell'arco di 5 anni comunque la situazione migliora notevolmente per i laureati, sia in termini di tasso di occupazione che di tasso di disoccupazione che di livello retributivo. Quindi, ripeto, in entrata sicuramente i giovani e anche i laureati in Italia hanno più problemi che nel resto d'Europa. Questa situazione per i laureati tende a migliorare velocemente nel corso di primi 5 anni di inserimento occupazionale. Comunque in generale ci sono segnali di inversione di tendenza sia in Italia che in Europa? Sì, fortunatamente l'ultima indagine offre dei segnali di speranza, di un'inversione di tendenza. Il tasso di occupazione si è stabilizzato mentre negli anni scorsi tendeva a ridursi di anno in anno, il tasso di disoccupazione si è ridotto e le retribuzioni sono leggermente aumentate. Questi chiaramente sono tutti segnali coerenti con l'idea che il mercato stia offrendo migliori opportunità di quanto succedeva in passato. Chiaramente si tratta di indicazioni che andranno confermate nei prossimi mesi in funzione dell'andamento effettivo piano macroeconomico e quindi anche a livello di mercato del lavoro. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Vi devo dare una bella notizia che viene dalla Nigeria. 200 ragazze e altre 93 donne sono state tratte in salvo dall'esercito nigeriano che ha occupato una delle principali basi delle milizie jihadiste di Boko Haram, lo hanno reso noto fonti delle forze armate nigeriane, senza confermare se siano le ragazze liceali rapite nel 2014. A Chibok c'è una buona probabilità, in ogni caso è già una bellissima notizia, che circa 300 donne siano state liberate dalle mani di questi sanguinari di Boko Haram. Forse una bella notizia ce la dà anche Dario Ricci. Ciao Dario. Beh, che fa il Carpi? Il Carpi, se non sbaglio, è sullo 0-0. Se non sbaglio, abbiamo anche un corrispondente d'eccezione questa sera, vero? Dallo bravo. Stadio Cabassi di Carpi. Chi lo chiama? Chi lo chiama in causa te? È Alberto Bellelli, che è il sindaco di Carpi. Buonasera a tutti. Sindaco, lei ci faccia un minuto di telecronaca, ecco, di radiocronaca, sindaco. È lì allo per stadio, favore. No? Allo stadio. Mi devo confessare, ero in tribuna per rispondere a voi e per poter parlare con voi, sono dovuto scendere qua a bordo campo. E magari si è perso un gol, non è che si è perso un gol, sindaco, adesso, no, no. Del Carpi, no? Guardi, ha iniziato molto bene il Carpi, ha sbagliato due o tre grosse occasioni all'inizio, poi la partita si è equilibrata, adesso giochiamo sotto il diluvio universale con tanto di lampi nel più classico dei temporali primaverili, quindi una serata molto particolare. Detto questo, la partita è equilibrata in questo momento, non abbiamo corso grandi rischi contro il Bari. Contro il Bari, sì, non abbiamo corso grandi rischi, sappiamo che un punto può essere determinante, farebbe esplodere la gioia di tutta la città. E soprattutto sua, sindaco. Dario, cosa vuol dire il sindaco? Sì, sindaco, bando alla scaramanzia, stasera si fa festa, Stasera si fa festa, anche se sarà una serata piovosa, ma si farà festa. Questo è bello perché, insomma, qualcuno non tanto tempo fa ha detto che Stoccata a Claudio Lotito, no Roberta? Perché che dice? Io faccio delle considerazioni. Serata fortunata, no? Cosa hai detto? No, perché Lotito, riassumiamo, aveva detto in un'intercettazione telefonica poi divulgata che... Ah sì, che le piccole squadre... Se una squadra come il Carpi fosse venuta in Serie A sarebbe stata una iattura per il movimento, perché... Un danno. Ecco, oggi la risposta arriva dal campo. Perché spendere anche per loro, insomma. No, perché non è il prodotto non diventa profittevole per i diritti TV. Adesso la risposta arriva dal campo, sindaco. No, esatto, e mi piace sottolineare una cosa che secondo me, adesso io non entro nel merito di quella polemica, faccio semplicemente una riflessione. Secondo me queste sono favole che fanno bene allo sport e fanno bene anche al calcio. Certo. La provinciale che fino a 6 anni fa non era neanche in Lega Pro e che oggi sappiamo cosa sta facendo, l'ha fatto con umiltà, con un gruppo di giovani veramente che corrono più degli altri e che hanno avuto, ribadisco, l'umiltà in campo e soprattutto giocano veramente molto bene. Ce la sono conquistata sul campo, ce la siamo conquistata, ha dato una grande visibilità per questa città. L'unica cosa che posso dire, sarebbe bello avere anche un movimento del calcio capace di valorizzare queste situazioni. In Spagna l'Eibar, che è una squadra che ha uno stadio da 5.000 posti, là ci va a giocare il Real Madrid con Cristiano Ronaldo. Qua in Italia bisogna avere 10.000 posti. Per noi è un'avventura estremamente difficile oggi, soprattutto per le situazioni anche economiche dei conti pubblici dei comuni. Senta, sindaco, le chiedo, ma lo invitate Claudio Lotito alla festa promozione? No, io non invito, vengono direttamente in piazza quelli che hanno voglia di venire nella nostra bella piazza Martiri. Però insomma ci potrebbe, sarebbe anche un bel gesto, magari fate pure pace, no? Sì, ma io non ho litigato con nessuno, neanche la società. Penso che le risposte sul campo siano belle da vedere. Comunque sarebbe una bella rivincita, diciamocelo, sindaco Bellelli, sì, no? Decisamente, ma è bella anche per la città. Insomma, noi nel 2012 abbiamo avuto... Siamo stati coinvolti assieme agli altri comuni della Bassa nel sisma, nel terremoto dell'Emilia, un momento difficile ovviamente anche dal punto di vista economico e non solo. Oggi si sta rivedendo una luce e tra queste luci ovviamente anche una squadra di calcio che arriva in Serie A, che dà una bella visibilità alla città, insomma è una luce che abbagliante. Bene, buona festa allora Alberto Bellelli, grazie. Bravo, bravo anche come radiocronista. Bravissimo, un esperto di calcio, è vero, possiamo in qualche caso utilizzarlo. Grazie Dario Ricci, anche a te. Grazie a voi. Noi dopo.